Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Quando Amaranta lo vide entrare, seppe immediatamente, senza che lui dicesse nulla, perché era tornato. A tavola non osavano guardarsi in faccia, ma 2 settimane dopo il ritorno, in presenza di Ursula, Aureliano José fissò i suoi occhi in quelli di Amaranta e le disse: «Ho pensato molto a te, sempre». Ma Amaranta lo sfuggiva. Badava a evitare gli incontri casuali, cercava di non separarsi da Remedios la Bella. La indignò il rossore che le indorò le gote il giorno in cui il nipote le chiese fino a quando pensava di portare la benda nera sulla mano, perché interpretò quella domanda come un'allusione alla sua verginità. Quando lui arrivò, lei serrò a chiavaccio l'uscio della sua stanza da letto, ma lo sentì ronfare pacificamente per così tante notti nella stanza attigua che finì per trascurare la precauzione. Un mattino, quasi 2 mesi dopo il suo ritorno, invece di mettersi a gridare come s'era prefissa, si lasciò invadere da una dolce sensazione di abbandono. Lo sentì scivolare sotto la zanzariera come faceva da bambino, come faceva da sempre, e non poté reprimere il sudore gelato e lo scricchiolio dei denti quando si rese conto che era completamente nudo. «Vattene», mormorò, soffocata dalla curiosità. «Vattene o mi metto a gridare». Ma ormai Aureliano José sapeva cosa fare, perché non era più un bambino impaurito dal buio, ma un animale d'accampamento. Da quella notte ricominciarono le sorde battaglie senza risultato, che si prolungavano fino allo spuntare del giorno. «Sono tua zia», mormorava Amaranta, sfinita. «È quasi come se fossi tua madre, non soltanto per l'età, ma perché mi è mancato soltanto di allattarti». Aureliano José se la svignava all'alba e la notte dopo tornava prima che spuntasse il giorno, sempre più eccitato dalla conferma che lei non tirava il chiavaccio. Non aveva smesso di desiderarla per un solo istante. La ritrovava negli oscuri letti dei villaggi conquistati, soprattutto nei più sordidi, e la materializzava nel tanfo del sangue secco sulle bende di feriti, nel timore istantaneo del pericolo di morte in ogni ora e in ogni luogo. Era fuggito da lei cercando di annichilare il suo ricordo non soltanto con la distanza, ma anche con un accanimento sconsiderato che i suoi compagni di lotta definivano temerarietà, ma con più rivoltolava la sua immagine nell'etamaio della guerra, con più la guerra somigliava ad Amaranta. Così soffrì l'esilio, cercando il modo di ucciderla con la sua stessa morte, finché sentì raccontare da qualcuno la vecchia storiella dell'uomo che si era sposato con una zia che era per di più anche sua cugina e il cui figlio aveva finito per essere nonno di se stesso. «Ma uno si può sposare con una zia?» chiese Aureliano José sbigottito. «Non solo può», gli rispose un soldato, «ma noi stiamo facendo questa guerra contro i preti perché uno si possa sposare perfino con sua madre». 15 giorni dopo disertò. Trovò Amaranta più appassita che nel suo ricordo, più melanconica e pudibonda, e prossima in effetti a doppiare l'ultimo capo della maturità, ma più febbrile che mai nell'oscurità della stanza e più provocante che mai nell'aggressività della sua resistenza. «Sei un bruto», gli diceva Amaranta, incalzata dai suoi cani da presa. «Non è vero che si possa far questo a una povera zia, a meno di avere la dispensa speciale dal Papa». Aureliano José prometteva di andare a Roma. Prometteva di percorrere l'Europa in ginocchio e baciare le pantofole del sommo pontefice purché lei abbassasse i ponti levatoi. «Non è soltanto questo», ribatteva Amaranta. «È perché nascono figli con coda di maiale». Aureliano José era sordo a ogni argomento. «Anche se dovessero nascere armadilli», supplicava. Un mattino, vinto dal dolore insopportabile della virilità repressa, andò nella bottega di Catarino. Trovò una donna coi seni flaccidi, compiacente e di poca spesa, che gli quietò il ventre per qualche tempo. Cercò di usare con Amaranta il sistema dell'indifferenza. La vedeva nel portico, intenta a cucire su una macchina a manovella che aveva imparato ad operare con abilità ammirevole, e non le rivolgeva nemmeno la parola. Amaranta si sentì liberata da una zavorra, e lei stessa non capì perché mai era tornata a pensare al colonnello Gerineldo Márquez, perché evocava con tanta nostalgia i pomeriggi di dama cinese e perché arrivò perfino a desiderarlo come uomo da letto. Aureliano José non si immaginava quanto terreno avesse perso la notte in cui non poté più resistere alla farsa dell'indifferenza e tornò nella stanza di Amaranta. Lei lo respinse con una risolutezza inflessibile, inequivocabile, e serrò per sempre il chiavaccio dell'uscio. Pochi mesi dopo il ritorno di Aureliano José, si presentò in casa una donna esuberante, profumata di gelsomino, con un bambino di circa 5 anni. Affermò che era figlio del colonnello Aureliano Buendía e lo portava perché Ursula lo battezzasse. Nessuno mise in dubbio l'origine di quel bambino senza nome. Era uguale al colonnello ai tempi in cui lo avevano portato a conoscere il ghiaccio. La donna raccontò che era nato con gli occhi aperti e guardando la gente col criterio di una persona grande. Lo spaventava quel suo modo di fissare lo sguardo sulle cose senza batter ciglio. «È identico», disse Ursula. «Manca soltanto che faccia girare le sedie al solo guardarle». Lo battezzarono col nome di Aureliano e col cognome di sua madre, perché la legge non gli permetteva di portare il cognome del padre finché questi non lo avesse riconosciuto. Ursula ignorava in quei tempi l'abitudine di mandare donzelle nel letto dei guerrieri, come si mettono le galline sotto i galli di razza. Ma nel corso di quell'anno l'apprese. Altri 9 figli del colonnello Aureliano Buendía furono portati in casa per essere battezzati. Il maggiore aveva passato i 10 anni ed era uno strano moretto con gli occhi verdi che non aveva nulla della famiglia paterna. Portarono bambini di ogni età, di ogni colore, ma tutti maschi e tutti con un'aria di solitudine che non permetteva di mettere in dubbio la parentela. In meno di 12 anni battezzarono col nome di Aureliano e col cognome della madre tutti i figli che il colonnello aveva disseminato in lungo e largo nei suoi territori di guerra. 17. Sulle prime Ursula riempiva loro le tasche di soldi e Amaranta tentava di farseli lasciare, ma più tardi si limitarono a far loro un regalo e a servire da madrine. «Abbiamo fatto il nostro dovere battezzandoli», diceva Ursula, annotando sul libretto il nome, l'indirizzo delle madri, il luogo e la data di nascita dei bambini. Aureliano avrà ben fatto i suoi conti e così sarà lui a prendere le decisioni quando tornerà. La situazione tornò a essere tesa come nei mesi che avevano preceduto la prima guerra. Il capitano Aquiles Ricardo, comandante della guarnigione, assunse in pratica il potere municipale. I liberali lo considerarono come un provocatore. «Succederà qualcosa di terribile», diceva Ursula ad Aureliano José. «Non uscire in strada dopo le 6 di sera!» Tutte suppliche inutili. Aureliano José, proprio come Arcadio in altri tempi, non le apparteneva più. Era come se il ritorno a casa, la possibilità di esistere senza preoccuparsi delle necessità quotidiane, avessero destato in lui la vocazione concupiscente e accidiosa di suo zio José Arcadio. La sua passione per Amaranta si estinse senza lasciare cicatrici. Andava un po' alla deriva, giocando a biliardo, alleviando la sua solitudine con donne occasionali, saccheggiando gli angoli dove Ursula dimenticava il denaro. Finì per non tornare a casa altro che per cambiarsi. «Sono tutti uguali», si lagnava Ursula. «Sulle prime crescono bene, sono obbedienti, educati e sembrano incapaci di ammazzare una mosca. E appena gli cresce la barba si buttano alla perdizione». Al contrario di Arcadio, che non aveva mai saputo la sua vera origine, lui venne a sapere di essere figlio di Pilar Ternera, che gli aveva appeso una maca perché facesse la siesta nella sua casa. Erano, più che madre e figlio, complici nella solitudine. Pilar Ternera aveva perduto la traccia di ogni speranza. La sua risata aveva acquistato tonalità di organo, i suoi seni avevano ceduto al tedio delle carezze occasionali. Il suo ventre e le sue cosce erano state vittime del suo irrevocabile destino di donna spartita. Ma il suo cuore invecchiava senza amarezza. Grassa, linguacciuta, con aria da matrona in disgrazia, rinunciò all'illusione sterile delle carte e trovò una gora di consolazione negli amori altrui. Nella casa dove Aureliano José faceva la siesta, le ragazze dei dintorni ricevevano i loro amanti casuali. «Mi presti la stanza, Pilar?» le dicevano semplicemente quando si trovavano già dentro. «Naturalmente», diceva Pilar. E se qualcuno era presente, gli spiegava. «Sono felice sapendo che la gente è felice a letto». Non si faceva mai pagare il servizio. Non rifiutava mai il favore, come non lo rifiutò agli incalcolabili uomini che la cercavano perfino nel crepuscolo della sua maturità. Senza darle né denaro né amore, e solo qualche volta piacere. Le sue 5 figlie, eredi di un seme ardente, si persero per i meandri della vita fin dall'adolescenza. Dei 2 maschi che riuscì ad allevare, uno morì combattendo con le truppe del colonnello Aureliano Buendía e l'altro fu ferito e catturato quando aveva 14 anni mentre tentava di rubare una gabbia di galline in un villaggio della Palude. In un certo modo, Aureliano José fu l'uomo alto e bruno che per mezzo secolo le aveva annunciato il re di coppe e che, come tutti gli inviati delle carte, arrivò al suo cuore quando era già marcato dal segno della morte. Lei lo lesse nelle carte. «Non uscire questa notte», gli disse. «Rimani a dormire qui. Carmelita Montiel mi ha pregato e ripregato di mettertela nel letto». Aureliano José non captò il profondo significato di supplica che aveva quella offerta. «Dille che mi aspetti a mezzanotte», rispose. Una compagnia spagnola rappresentava il pugnale di Zorro. Solo nel momento di consegnare il biglietto alla porta, Aureliano si rese conto che il capitano Achilles Ricardo, con 2 soldati armati di fucile, stava perquisendo il pubblico. «Attento, capitano», lo avvertì Aureliano José. «Non è ancora nato l'uomo che mi metterà le mani addosso». Il capitano cercò di perquisirlo con la forza e Aureliano José, che era disarmato, si buttò a correre. I soldati non ubbidirono all'ordine di sparare. «È un Buendía», spiegò uno di loro. Accecato dall'ira, il capitano gli strappò il fucile, si mise a gambe larghe in mezzo alla strada e prese la mira. «Cornuti!» riuscì a gridare. «Magari fosse il colonnello Aureliano Buendía!» Carmelita Montiel, vergine ventenne, aveva appena finito di profumarsi d'acqua di zagara e stava spargendo foglie di ramerino nel letto di Pilar Ternera quando si udì lo sparo. Il destino di Aureliano José era di conoscere con lei la felicità che gli aveva rifiutato Amaranta, di avere 7 figli e di morire di vecchiaia tra le sue braccia. Ma la pallottola di fucile che gli entrò nella schiena e gli schiattò il petto era stata diretta da un'errata interpretazione delle carte. Il predestinato a morire quella notte era in realtà il capitano Achilles Ricardo e morì effettivamente 4 ore prima di Aureliano José. Non appena rimbombò lo sparo, fu abbattuto da 2 scariche simultanee di cui non si stabilì mai l'origine e il grido di una folla immensa fece tremare la notte. «Viva il Partito Liberale! Viva il colonnello Aureliano Buendía!» Alle 12, quando Aureliano José finì di dissanguarsi e Carmelita Montiel trovò in bianco le carte del suo avvenire, più di 400 uomini erano sfilati davanti al teatro e avevano scaricato le loro pistole contro il cadavere abbandonato del capitano Achilles Ricardo. Fu necessario l'intervento di una pattuglia per mettere su un carretto il corpo imbottito di piombo, che si disfaceva come pane inzuppato. Contrariato per le angherie dell'esercito regolare, il generale José Raquel Moncada mobilitò le sue influenze politiche, tornò a indossare l'uniforme e assunse il comando civile e militare di Macondo. Le notizie di settembre furono contraddittorie. Mentre il governo assicurava di avere in mano il controllo del paese, i liberali ricevevano informazioni segrete di sommosse armate nell'interno. Il regime non ammise lo stato di guerra finché non si proclamò in un bando che era stato convocato il Consiglio di guerra e che aveva condannato a morte in contumacia il colonnello Aureliano Buendía. Si ordinava di eseguire la sentenza alla prima guarnigione che lo avesse catturato vivo. «Questo vuol dire che è tornato», si rallegrò Ursula col generale Moncada. Ma neanche lui lo sapeva. In realtà, il colonnello Aureliano Buendía era nel paese da più di un mese. Preceduto da voci contraddittorie, segnalato nello stesso momento in luoghi lontanissimi tra loro, neanche il generale Moncada credette al suo ritorno finché non venne l'annuncio ufficiale che Buendía si era impossessato di 2 stati della costa. «Mi rallegro con lei, comare», disse a Ursula, mostrandole il telegramma. «Fra poco lo avrà qui». Allora Ursula per la prima volta si preoccupò. «E lei cosa farà, compare?» chiese. Il generale Moncada si era posto parecchie volte la stessa domanda. «La stessa cosa che farà lui, comare», rispose. «Compirò il mio dovere». Il 1 ottobre, allo spuntare del giorno, il colonnello Aureliano Buendía, con 1000 uomini ben armati, attaccò Macondo e la guarnigione ricevette l'ordine di resistere fino alla fine. A mezzogiorno, mentre il generale Moncada pranzava con Ursula, una cannonata ribelle che rimbombò in tutto il borgo polverizzò la facciata della tesoreria municipale. «Sono bene armati quanto noi», sospirò il generale Moncada, «ma combattono con maggiore lena». Alle 2 del pomeriggio, mentre la terra tremava per le cannonate di ambedue le parti, si accomiatò da Ursula con la certezza di star combattendo una battaglia perduta. «Prego Dio che lei non abbia Aureliano in casa questa notte», disse. «Se così fosse, gli dia un abbraccio da parte mia, perché credo che io non lo vedrò mai più». Fu catturato quella notte mentre cercava di fuggire da Macondo, dopo aver scritto una lunga lettera al colonnello Buendia, nella quale gli ricordava i comuni propositi di umanizzare la guerra e gli augurava una vittoria definitiva contro la corruzione dei militari e le ambizioni dei politici di ambedue i partiti. Il giorno dopo il colonnello Aureliano Buendia pranzò con lui in casa di Ursula e ivi fu recluso fin tanto che un consiglio di guerra rivoluzionario non avesse deciso il suo destino. Fu una riunione familiare. Ma mentre gli avversari dimenticavano la guerra per evocare i ricordi del passato, Ursula ebbe l'oscura impressione che suo figlio lì fosse un intruso. L'aveva avuta da quando lo vide entrare protetto da un rumoroso apparato militare che buttò sopra tutte le stanze finché non si convinsero che non c'era nessun pericolo. Il colonnello Aureliano Buendia non solo lasciò fare, ma impartì per di più ordini di drastica severità e non permise a nessuno, nemmeno a Ursula, di avvicinarglisi a meno di 3 metri finché la sua scorta non avesse finito di stendere intorno alla casa un cordone di sentinelle. Portava un uniforme di drill ordinario, senza gradi né niente, e stivali alti con speroni incrostati di fango e di sangue secco. Portava alla cintura una pistola con la fondina slacciata e la mano sempre appoggiata al calcio rivelava la stessa tensione vigile e decisa dello sguardo. La testa, ora scavata e rinsecchita, sembrava cotta in un forno a fuoco lento. La pelle del volto, conciata dal sale dei Caraibi, aveva acquistato una durezza metallica. Era preservato contro la vecchiaia imminente da una vitalità che era certo in relazione con la freddezza delle sue viscere. Era più alto di quando se n'era andato, più pallido e ossuto, e manifestava i primi sintomi di resistenza alla nostalgia. «Dio mio», disse tra sé Ursula spaventata, «ora sembra un uomo capace di tutto». Lo era. Lo scialle azteco che aveva portato ad Amaranta, le cose che rievocò durante il pranzo, gli aneddoti divertenti che raccontò, non erano altro che ceneri spente del suo spirito d'altra epoca. Non appena eseguito l'ordine di seppellire i morti nella fossa comune, assegnò al colonnello Rocco e Carnissero la missione di affrettare i processi di guerra e lui si assunse l'estenuante compito di imporre le riforme radicali destinate a non lasciar traccia della logora struttura del regime conservatore. «Dobbiamo precedere i politicanti del partito», diceva ai suoi aiutanti. «Quando apriranno gli occhi sulla realtà, si troveranno davanti al fatto compiuto». Fu allora che decise di rivedere i titoli di proprietà della terra, risalendo a 100 anni prima, e scoprì i soprusi legalizzati di suo fratello José Arcadio. Annullò le registrazioni con un colpo di penna. In un ultimo gesto di cortesia, trascurò le sue faccende per un'ora e andò a trovare Rebeca per metterla al corrente della sua decisione. Nella penombra della casa, Rebeca, la vedova solitaria che un tempo era stata la confidente dei suoi amori repressi e la cui ostinazione gli aveva salvato la vita, era uno spettro del passato. Corazzata di nero fino ai polsi, col cuore ridotto in cenere, non aveva avuto che qualche vaga notizia della guerra. Il colonnello Aureliano Buendia ebbe l'impressione che la fosforescenza delle ossa trapassasse la sua pelle e che la donna si muovesse attraverso un'atmosfera di fuochi fatui, in un'area stagnante dove si percepiva ancora un recondito odore di polvere da sparo. Cominciò col consigliarle di moderare il rigore del suo lutto, di ventilare la casa, di perdonare al mondo la morte di José Arcadio, ma Rebecca era ormai al sicuro da qualsiasi vanità. Dopo averla cercata inutilmente nel sapore della terra, nelle lettere profumate di Pietro Crespi, nel letto tempestoso di suo marito, aveva trovato la pace in quella casa dove i ricordi si materializzavano con la forza dell'evocazione implacabile e vagavano come esseri umani per le stanze accecate. Rigida nella sua sedia a dondolo di vimini, fissando il colonnello Aureliano Buendia come se fosse anche lui uno spettro del passato, Rebecca non si turbò nemmeno alla notizia che le terre usurpate da José Arcadio sarebbero state restituite ai loro proprietari legittimi. «Si farà quello che tu disponi, Aureliano», sospirò. «Ho sempre creduto e ne ho ora la conferma che tu sei un senza casta». la revisione dei titoli di proprietà venne realizzata contemporaneamente ai processi sommari, presieduti dal colonnello Gerineldo Márquez, che si concluse con la fucilazione di tutti gli ufficiali dell'esercito regolare prigionieri dei rivoluzionari. L'ultimo consiglio di guerra si riunì per il generale José Raquel Moncada. Úrsula intervenne. «È il miglior governante che abbiamo avuto a Macondo», disse al colonnello Aureliano Buendía. «Non ho nemmeno bisogno di parlarti del suo buon cuore, dell'affetto che ci porta, perché tu lo conosci meglio di chiunque altro». Colonnello Aureliano Buendía le rivolse uno sguardo di biasimo. «Non posso arrogarmi la facoltà di amministrare la giustizia», ribatté. «Se lei ha qualcosa da dire, lo dica davanti al consiglio di guerra». Úrsula non solo lo fece, ma portò con sé tutte le madri degli ufficiali rivoluzionari che vivevano a Macondo. Ad una, le vecchie fondatrici del villaggio esaltarono le virtù del generale Moncada. Úrsula fu l'ultima della sfilata. La dignità del suo lutto, il peso del suo nome, la convincente veemenza della sua dichiarazione fecero vacillare per un attimo la bilancia della giustizia. «Voi avete preso molto sul serio questo gioco spaventoso. E avete fatto bene, perché state facendo il vostro dovere», disse ai membri del tribunale. «Ma non dimenticate che finché Dio ci dà vita, noi continueremo a essere madri e che, rivoluzionari o no, abbiamo il diritto di tirarvi giù i pantaloni e prendervi a sculacciate alla prima mancanza di rispetto». La giuria si ritirò per deliberare mentre ancora echeggiavano queste parole nella scuola trasformata in caserma. A mezzanotte il generale José Raquel Moncada fu condannato a morte. Il colonnello Aureliano Buendía, nonostante le violente recriminazioni di Úrsula, si rifiutò di commutargli la pena. Poco prima dello spuntar del giorno, andò a far visita al condannato in cella. «Ricordati sempre», gli disse, «che non ti fucilo io. Ti fucila la rivoluzione». Il generale Moncada non si alzò nemmeno dalla branda quando lo vide entrare. «Va a cagare, compare», ribatté. Fino a quel momento, dal suo ritorno, il colonnello Aureliano Buendía non si era mai concesso l'agio di guardarlo bene. Si stupì di trovarlo così invecchiato, del tremito delle sue mani, della rassegnazione un po' abitudinaria con la quale aspettava la morte. E allora provò per se stesso un profondo disprezzo, che scambiò per un principio di misericordia. «Sai meglio di me», disse, «che tutti i tribunali di guerra sono una farsa e che in realtà tu paghi per i delitti degli altri. Perché questa volta vinceremo la guerra a qualunque costo. Tu, al mio posto, non avresti fatto lo stesso». Il generale Moncada si alzò a sedere sul letto per pulire i grossi occhiali di tartaruga con la falda della camicia. «Probabilmente», disse. «Ma quello che mi preoccupa non è che mi fai fucilare, perché in fondo, per la gente come noi, questa è la morte naturale». Posò gli occhiali sul letto e si tolse l'orologio a cipolla. «Quello che mi preoccupa», aggiunse, «è che a furia di odiare i militari, a furia di combatterli, a furia di pensare a loro, hai finito per essere uguale a loro. E nella vita non esiste un ideale che meriti tanta abiezione». Si sfilò l'anello matrimoniale e la medaglia della Vergine de los Remedios e li mise vicino agli occhiali e all'orologio. «Di questo passo», concluse, «non soltanto sarai il dittatore più dispotico e sanguinario della nostra storia, ma farai anche fucilare Úrsula per metterti in pace la coscienza». Il colonnello Aureliano Buendía rimase impassibile. Allora il generale Moncada gli consegnò gli occhiali, la medaglia, l'orologio e l'anello e cambiò tono. «Ma non ti ho fatto venire per rimproverarti», disse. «Vorrei pregarti di farmi il favore di mandare queste cose a mia moglie». Il colonnello Aureliano Buendía mise gli oggetti in tasca. «È sempre a Manaure?» «È sempre a Manaure», confermò il generale Moncada. «Nella stessa casa dietro la chiesa dove hai mandato quella lettera». «Lo farò con molto piacere, José Raquel», disse il colonnello Aureliano Buendía. Quando uscì nell'aria cilestrina di nebbia, il viso gli si inumidì come in un'altra alba del passato e soltanto allora comprese perché aveva ordinato che la sentenza si eseguisse nel patio e non contro il muro del cimitero. Il plotone, schierato davanti alla porta, gli rese gli onori di capo di Stato. «Andate pure a prenderlo», ordinò.